fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Ed eccoci qua, ben ritrovati all'ascolto sulle frequenze e sulle interconnessioni web di Resto Radio Convento. Questa sera, questa noce tra il sabato e la domenica 25 novembre 2018, qua negli studi di Resto Radio Convento, io sono Mr. Dave e ho il piacere, anzi devo dire l'incommensurabile piacere di essere qua con questi carissimi amici che arrivano da Renato, Francesca Alessia. Ma allora continui a cambiarmi il nome. Allora siamo qua con Alessia da Lonato. Sì. Alessia da San Martino della Battaglia. Linda da Sedia. Renzo da Lonato. Scusami, ripetiamo, allora abbiamo detto Alessia da Lonato. Sì, frazione di Sedena. Ok, poi abbiamo Alessia da San Martino della Battaglia. Alessia da San Martino della Battaglia. Anch'io da Sedena, Linda. Sedena è in pratica in provincia Lonato. Di Lonato. Sì, sì, è una provincia. È una frazione. Ok. E cosa festeggiate qua questa sera? Il compleanno della Linda e del suo gemello Davide che è fuori. Il compleanno della Linda! Io 18! 18 anni ragazzi, 18 anni si vivono una volta sola, avete festeggiato bene? Sì. Mangiato? Siamo qua con te, quindi... festeggiamo alla grande, diciamo. Adulatore! Avete fatto le foto? Sì. Pazzo, il ovviamente fotografo. Con te le foto. Sì. Non ho mai conosciuto un fotografo così bravo. Ah, grazie. Divertente, ovviamente. Più che altro divertente. Esatto. Bravo, non lo so, lo dovrete dire domani. No, divertente sicuramente. Ma allora, quindi, cosa succede questa sera? Festeggiamo il compleanno. Ho capito. Ma? Ma? Ci divertiamo. Vi divertite? Sì. Balliamo. Balliamo. E poi? Beviamo. Beviamo. C'è anche... ci sono altre cose che finisco con iamo. L'abbiamo detto, no, beviamo. No. Però è meglio non dire. Questo lo lasciamo dire alla Linda. La Linda può dirlo. Dormiamo. Dormiamo, quello sicuramente. Dormiamo. Appena arriviamo a casa. Ok. E basta. E beviamo soprattutto. Beviamo soprattutto. Sì, perché l'idratazione è importante. Soprattutto io e Alessio abbiamo molto bevuto, purtroppo. Vedo che avete molto bevuto acqua, soprattutto perché sì, siete acqua naturale. Naturale senza bollicine, che non voglio esaltarmi troppo, che faccio un casino. No, che è importante, cioè è meglio non essere oppure che o no. Giusto? No. Ovvio. È ovviamente un giusto appunto, come volevo dire. Sì. Ognuno deve trarre le conseguenze. Esatto. Certo. Poi bisogna saper leggere tra le righe. Esatto, poi ognuno sa quali sono i suoi limiti. Che frasi fatte. Frasi fatte. Adesso io cederei il microfono a Linda e vorrei che Linda ci... Linda, vero? Linda. Ho detto giusto questa volta? Sì, giusto stavolta. È strano. Linda, sì. Come ci si sente 18 anni? Beh, guarda, in realtà uguale a prima. Non è cambiato nulla. Non è cambiato niente. Però lo sai che se succede qualcosa adesso... cioè, è il penale, Sì, io sono brava, non combino niente. Sì, lo sappiamo. Certo. Sei brava, 9,5 a scuola di media. È vero, è così, infatti. 9,8 l'anno scorso è uscita. 9,8. No. Sì. Adesso siete in quinta, quindi. Loro sì, sono in quinta. Quinta, liceo? Sì. ITIS, Istituto Tecnico Industriale Statale. Che Bazzoli. Lui sta parlando in questo momento, sta parlando. Ah, chi è? Lorenzo. Cosa che specializzazione fai, Lorenzo? Elettronica. Elettronica? Non facciamo quasi niente, sinceramente. Ah, cioè, in pratica transistor, nulla. Diffamiamo un po' lì perché. BCC, NBC. Facciamo i circuiti per accendere le luci. I circuiti per accendere le luci vicino a i bambini. Cioè? Quando vengono gli open day, facciamo. I circuiti. Ma cosa usate? NAND, AND, OR? Tutto? Porte logiche. Bene, qui usando ci siamo. Usando tutte le mie conoscenze. Le porte logiche? Sì. Ok. Ma io sono un asino, quindi non so niente. Sei un asino logico o illogico? assolutamente logico. Ma è normale che non abbia capito nulla di quello che avete detto? Beh, perché voi fate agraria. È certo tecnico. Sì. Solo io sono diversa da loro, cioè. No, non capite una vacca proprio. Esatto. No, dai, poverino. Almeno il termine l'hai azzeccato. Esatto. Ma vabbè, niente, quindi qui siamo qua per festeggiare Linda, 18 anni. Ben portati. Grazie. Prego. Non c'è di che. Vuoi offrirmi qualcosa? Non lo so. Vuoi, a questo punto vi cedo il microfono se volete lanciare un messaggio. Sappiate che queste cose rimarranno in radio, vengono ascoltate in questo momento in tutto il mondo, ma poi verranno riproposte per tutto il mese a orari random. E quindi in più ci sarà il podcast che potrete scaricare quando volete. Nessuna pressione, insomma, per quello che diremo no, adesso. No, assolutamente. Cioè, siete liberi di dire quello che volete. Dai, faccio io, inizio okay, io. Okay. Rompo il ghiaccio io. Ragazzi della nostra età più o meno. Vabbè, quindi io 18 anni. Io sono più piccola di loro. Anno? Io sono 2003, loro sono 2000. Cioè io sono molto più piccola. Ma che e lui sanno è 2001. I 2000. Esatto, proprio loro. Vabbè, divertitevi, fate esperienze nuove. Alessia è un peperino. Di che segno sei, Alessia? Io gemelli. Gemelli è un bel segno. Sì, è molto. Alessio? Io sono Capricorno. Capricorno, Linda? Sagittario. Sagittario, Lorenzo? Vergine. Però non per Lorenzo sei una sagoma. Anche mio figlio purtroppo si chiama Lorenzo. Purtroppo perché? Purtroppo perché diventerà come te. Un elettronico che non sa nulla. Quanti anni ha? 12. Dai, ancora c'è tempo. Ancora avanti. Sì, sì, sì. Salutiamo tutti i Lorenzi d'Italia. Ciao! Siete proprio belli. Anche tutte le Alessie, dai. Allora, Linda, sì. Torniamo al dunque. Quindi, cosa ci dici? Cosa ci racconti? La tua esperienza? La mia esperienza da diciottenne. Sì. Appena, vicino al microfono. È appena iniziata, quindi non è che la mia prima esperienza da diciottenne è stata andare in radio. Ah, quindi. Esperienza molto interessante. Sì. Sì. Divertente. merito mio? Certo. Oh, mamma mia. Ho creato dei mostri, ragazzi. Posso salutare delle persone? Certo, certo. Allora volevo salutare tutti quelli che ci sono qua davanti in questo momento. Osservando in questo momento, quindi Kevin, Davide, Luca, Zambo, Andrea, chiamato anche Cioffo, e Michele Papa, che non è qui in questo momento, non so dove sia. Boh, sarà dietro di noi probabilmente perché vorrà entrare anche lui. Anche Kevin, ci sono due, sì, Kevin. Esatto. Kevin di Sedena del nostro paesino e Kevin invece di Lonato. Cioè, siete arrivati qua col pullman in pratica? No, in bicicletta. Pensavo in bicicletta. No, in bicicletta è un po' più di tipo freddo. Col tandem. Fa un po' freddo in bici, semmai, chiediamo i passaggi. Vedi però come cambia il tempo? Sì. Io non sono un 2000, ma sono un 1968. Noi alla vostra età andavamo in giro col motorino, col ciao. Avere il motorino, dai, ad aprile inizio patente io, quindi dai. E faceva molto freddo. Anche io sono il motorino. Che motorino hai? Il booster un po'. Ah, booster, però, truccato? Però truccato. No, però va, viaggia un po'. Sì. Boh, il booster è un bello scooter, Ma ciao, poi si è spaccato, me l'hanno potenziato a casa, senza che lo volessi. E vai. Ma tu essendo un 68 quest'anno compi 50 anni. Già fatti, cioè, caro. È da festeggiare questa cosa. No, ma l'ho già fatto. Vabbè, si festeggia con noi. Ma no, possiamo rifesteggiare. Esatto. Perché, scusa, com'è? Però non li porto, Io mi sento un diciottenne, guarda, come vuoi. Ma è meglio così. Sì. Ragazzi, è arrivato il momento di salutare. Volevo dire. Con parole tue, va bene. Esatto. Sì. Volevo dire che la vita è una sola e quindi bisogna fare tutte le esperienze che si pensano al momento, quindi non bisogna pensare due volte su quello che si passa nella mente. Posso dissentire? No, assolutamente no, perché ogni cosa che ci passa nella mente è da fare assolutamente. Quindi, però bisogna pensare alle conseguenze. Dopo, cioè, la fai e basta. Perché io posso dissentire perché io parlo da papà. Sì. Io parlo da papà. Ho avuto anch'io 18 anni, 16 anni, 15 anni, ne ho passate di cotte e di crude. però ho sempre pensato, se faccio questo poi mi faccio del male, se faccio questo poi vado nel penale, faccio due, cioè se ammazzo il ragazzo che sta scopando la mia ragazza in questo momento, cosa succede? No, beh, ma io intendevo cose positive, nel senso, non so, se sei ad esempio a una festa come questa, vedi una che butti. Ci sta e va bene, ok. Però bisogna pensare conseguenze anche. Sì, assolutamente. Bisogna usare il sacchettino, cioè, perché cioè, poi dopo c'è. Se no poi c'è la magagna. Si chiama così, sì. La magagna. Mia mamma mi definisce così, magagna. Wow, che complimenti. A quanti anni? Mamma. No, finiamo qua perché altrimenti poi. Esatto, è meglio. Allora ragazzi, salutiamo tutti gli amici a casa. Un ciao, bacione a tutti quanti. Ciao. Buonanotte. Buenas noches a todos el mundo. Ciao. Ciao.